Ecco le brigate sonore che giungono compatte all'appuntamento con Mario Musolesi, detto Lupo. Allora, bene, siamo in via Mario Musolesi, già via Due Palme. Ora, vedete come nella vecchia toponomastica della Cirenaica si mescolassero non solo veri e propri nomi di città, ma anche un esotismo d'accatto, da brochure, citando Due Palme, così, forse a riferimento all'oasi di Cufra, no? Non si capisce. Comunque si chiamava via Due Palme, oggi si chiama via Mario Musolesi, caduto per la liberazione o combattente antifascista, come ci piace definirlo. E non è facile parlare di Mario Musolesi, non è facile raccontare la sua storia, perché la sua figura è diventata in qualche modo leggendaria e materia quindi di racconti di tutti i generi. Però c'è un punto di partenza che secondo me è interessante anche per la storia del quartiere, e cioè che Mario Musolesi aveva svolto il suo servizio militare come carrista in Libia. Lo avevano mandato proprio in Libia. E, era in Libia quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, e quindi la colonia italiana si trovò a dover fronteggiare gli alleati, soprattutto al confine con l'Egitto. Mario, che già si faceva chiamare Lupo, perché a differenza di molti altri partigiani, il soprannome Lupo di Mario Musolesi non è un nome che gli è stato dato in brigata, non è un nome che gli hanno scelto i compagni della Stella Rossa, ma è un nome che gli veniva fin da ragazzo. Qualcuno lo collega al soprannome del suo amico Olindo Sammarchi, che invece era soprannominato Cagnone. Si diceva che Lupo e Cagnone fossero appunto i due inseparabili amici che andavano in giro per Vado e le montagne dei dintorni a fare le loro scorribande di ragazzi, inseparabili amici che poi invece, come vedremo, si separarono, e come. Non si sa, insomma, in sostanza, no? Anche questo fa parte della leggenda, non si sa esattamente per quale motivo venisse chiamato Lupo, ma già lo chiamavano così. Fece il servizio militare durante la Seconda Guerra Mondiale in Libia, venne a un certo punto anche catturato dagli alleati, riuscì a fuggire, tornò alla base militare dopo una marcia di 3 giorni nel deserto. Poi a un certo punto doveva dare un esame per prendere un diploma che gli serviva per il suo lavoro di meccanico, aveva chiesto una licenza, venne per dargli la licenza e per farlo partecipare a questo concorso per dare il diploma, presero informazioni su di lui, vennero a sapere che era un antifascista. I carabinieri, insomma, diedero questa informazione ai suoi comandanti militari, e questo gli costò un degradamento, cioè da non mi ricordo esattamente che cosa fosse, venne degradato, però rimase in Libia a far la guerra. A un certo punto, ferito, tornò in Italia con una licenza per il fatto che era stato ferito, ed era qui in Italia, e in particolare a Roma, quando l'8 settembre del 43 l'Italia si divise in due, quando il governo italiano decise di firmare l'armistizio con gli alleati, e i nazisti con i loro alleati fascisti occuparono una parte del paese. In particolare si combatté a Roma. A Roma si combatté nella zona di Porta San Paolo. Fu un combattimento che i romani ancora ricordano, ci sono ancora persone nei quartieri che parteciparono a quella battaglia, perché fu una battaglia straordinaria in quanto mista. Combatteva la gente del quartiere, combattevano militari italiani che non volevano stare con i nazisti, combattevano le primissime formazioni partigiane romane, e Mario Musolesi si trovò a combattere a Porta San Paolo. Poi, dopo un lungo viaggio, tornò verso la fine del settembre del 43 a Vado, che era il suo paese d'origine, era nato lì. Qualcuno dice, lo dicono in molti, insomma fa parte in qualche modo del racconto su di lui, che poco dopo che era tornato a Vado, i fascisti del paese gli offrirono di diventare il segretario, il capo, del partito fascista repubblicano, cioè del partito fascista alleato dei nazisti nel nord Italia. E questo perché Mario Musolesi in paese era molto conosciuto, era considerato un cosiddetto leader naturale, cioè uno che sapeva farsi obbedire, che era molto rispettato, e quindi pare che gli venne offerto di guidare il partito fascista repubblicano locale. Addirittura la sorella Bruna Musolesi, che ai tempi aveva 16 anni e che poi fu anche lei con la brigata Stella Rossa, praticamente tutta la famiglia Musolesi stava con la brigata, come accadeva a molte famiglie di partigiani, visto che combattevano nella zona dove abitavano. Bruna Musolesi dice che addirittura fu Tartarotti in visita a Vado a offrire il ruolo di segretario del partito fascista repubblicano locale a Mario. La cosa è dubbia, insomma, Tartarotti era diventato una specie di parte per il tutto, cioè per dire un grosso fascista si diceva Tartarotti. Allora, insomma, forse era un modo per ingigantire ulteriormente l'episodio, farlo entrare nella leggenda, perché Tartarotti fu un torturatore professionista. Dalle sue mani passarono molti partigiani, aveva una squadra speciale alle sue dipendenze con la quale torturava ed estorceva confessioni, e fu praticamente l'unico fascista bolognese che venne processato e condannato a morte e fucilato a quello stesso poligono di Tiro dove i suoi avevano fucilato tanti partigiani e capi della resistenza come Massenzio Masia. Però in realtà Tartarotti era stato foraggiato e messo al posto di comando che aveva, e gli era stata data carta libera per farsi una squadra di torturatori praticamente senza grossi vincoli, per esempio dall'allora questore di Bologna, che invece non ebbe nessun processo a suo carico e che anzi se la cavò accusando proprio Tartarotti di alcune irregolarità. Quindi Tartarotti in qualche modo pagò per tutti a Bologna. Beh, insomma, forse non fu Tartarotti a offrire il posto di segretario del partito fascista repubblicano a Mario Musolesi. Si dice, lo dice sempre Brunella Musolesi, che la risposta di Lupo fu non mi piace il nome, partito fascista repubblicano non mi piace, gli aveste dato un altro nome magari potevo anche accettare, ma così il nome non mi piace. Insomma, trovò una scusa per lasciarli a bocca asciutta, e da quel giorno cominciò invece a trovarsi insieme ai suoi due amici. Uno lo abbiamo già incontrato, anzi tutti e due. Uno era Giovanni Rossi, detto Gianni, il fratello più grande, ma mica tanto più grande, aveva 20 anni, di Gastone Rossi, e l'altro era Olindo Sammarchi. Pare che tra Lupo e Olindo, tra Mario e Olindo, ci fossero parecchie liti, parecchie diatribe su chi doveva diventare il capo della nuova formazione partigiana. Insomma, ci tenevano a essere capi tutti e due. Alla fine la riunione costitutiva della Brigata Stella Rossa si tenne in una saletta della parrocchia di Vado, presente il parroco del paese, e il parroco non ebbe dubbi e disse: vabbè, certo, se facciamo una brigata partigiana, chi vuoi che comandi? La comanda Mario. Tu, Olindo, sì, insomma, sei un bravo ragazzo, però a comandare è meglio Mario. E qualcuno dice che fin da quel momento Olindo Sammarchi se la legò al dito, tant'è che dopo aver fatto parte della Brigata Stella Rossa, un bel giorno Olindo Sammarchi decise di passare dall'altra parte, di passare nelle Brigate Nere e di dare la caccia al lupo, anche perché su Mario Musolesi era stata messa una taglia altissima, pare addirittura 1 milione di lire di allora, a chi avesse dimostrato di averlo fatto fuori o a chi lo avesse catturato. E fu così che in molti tentarono di ammazzarlo. Un episodio che è rimasto piuttosto famoso è quello di un infiltrato che è appunto mandato da Olindo San Marchi, che si infiltra nella Brigata Stella Rossa, riesce diciamo a convincere Mario e gli altri, Gianni Rossi, Sugano Melchiorri, tutti i componenti diciamo della Stella Rossa, di essere uno che voleva diventare partigiano, di essere uno che voleva sostenere la causa antifascista e combattere insieme con loro. Lo accolgono e poi un bel giorno insomma si rendono conto che invece questo ragazzo che è appena arrivato in brigata tenta di uccidere il lupo. Lo bloccano, lo immobilizzano e Mario Musolesi decide che non lo devono far fuori, non lo devono uccidere, come insomma le leggi della guerra prevedevano, insomma, no? un infiltrato che cerca di far fuori il capitano, il comandante di una brigata, e beh, insomma, difficilmente può aver salva la vita. Invece il maggiore Mario Musolesi decide di lasciarlo vivo, perché si lascia convincere dalle parole di questo ragazzo che dice: tengono prigionieri i miei genitori, la mia famiglia, se non venivo su e non ti facevo fuori, loro avrebbero fatto fuori i miei genitori. E Mario dice: beh, insomma, questa storia mi sembra anche credibile, se non è proprio andata così, poco ci manca, facciamolo stare in brigata, che alla fine vedrai che lo convinciamo. Alla fine vedrai che capisce che la cosa giusta da fare è combattere contro i fascisti e che la cosa che gli conviene fare in quanto ragazzo di questi paesi è di combattere contro il fascismo. Fatto sta che una sera il ragazzo si sveglia e ci riprova. Prova di nuovo a far fuori Mario Musolesi, questa volta però gli altri se ne accorgono, riesce soltanto a ferirlo e poi pare proprio un partigiano che era soprannominato Aeroplano gli abbia sparato e lo abbia così gli abbia impedito di nuocere. Questo insomma era il Mario Musolesi detto lupo, e per andare alla conclusione, insomma, perché gli episodi sarebbero troppi, c'è però anche qui una cosa che riguarda la sua morte, come con Gastone Rossi, perché questi partigiani non sono stati lasciati in pace neanche da cadaveri. Allora, successe che il 29 settembre del 1944 comincia il grande rastrellamento nazista di Montesole, quello che poi porterà al grande eccidio in quelle zone. Qualcuno dice che Lupo e i suoi compagni avevano sottovalutato quanto potesse essere grosso quel rastrellamento. Qualcuno dice che avevano che non era mai successo che i tedeschi si accanissero in un modo così sistematico, casa per casa, casolare per casolare, contro la popolazione civile, senza quasi disinteressandosi di catturare i loro nemici partigiani. Qualcuno dice che fece bene Sugano Melchiorri, che nel giugno del 44 litigò con il lupo e disse: qua noi non ci possiamo più stare, è troppo pericoloso, dobbiamo allontanarci. E Sugano Melchiorri, insieme a un'ottantina di partigiani della Stella Rossa, andò a combattere dalle parti di Anzola, e tra i due ci fu anche una litigata storica, forse addirittura con le armi puntate, perché Lupo gli disse: sì sì, vai pure Sugano, però le armi le teniamo noi, andate senza fucili, andate senza pistole. E insomma, Sugano, per ottenere le pistole, dovette litigare un po'. Fatto sta che il 29 settembre, di nuovo settembre del 44, parte il rastrellamento, e quando i fatti di Montesole si concludono, fu un rastrellamento che non è durato un giorno, è durato svariati giorni fino agli inizi di ottobre. Di Lupo si sono perse le tracce. Lupo non c'è, non si sa dove sia finito. Lo hanno visto uscire dal momentaneo comando della brigata Stella Rossa, che era accadotto di Monzuno, e però poi non si sa che fine abbia fatto. Lo cercano, cercano il cadavere a quel punto, visto che tanti hanno fatto quella fine, pensano che quella fine l'abbia fatta anche il Lupo, altrimenti si sarebbe fatto vivo, e però non lo trovano. Lo troveranno soltanto quasi un anno dopo. Era finito in un fosso, e dalla posizione in cui lo trovano cominciano a circolare voci che il Lupo sia stato ucciso sapendo che lo stavano per uccidere, che si sia rannicchiato, che si sia tirato su il bavero della giacca fin sulla testa, in qualche modo perché ferito o perché convinto che chi gli era arrivato vicino ormai lo avrebbe ucciso. E da lì cominciarono a partire voci di tutti i tipi per spiegare la morte di Mario Musolesi. Si cominciò a dire, chiaramente, come si era detto di Gastone Rossi, che il Lupo fosse stato fatto fuori dai suoi stessi compagni, dagli stessi partigiani, perché aveva messo da parte un tesoro, il tesoro della brigata, perché quel tesoro della brigata non voleva versarlo nelle casse dove alcuni volevano che lo versasse, ma lo voleva distribuire alla popolazione. Girarono voci di tutti i tipi, voci che portarono nel febbraio del 72 la procura di Bologna a decidere che venisse riesumata la salma di Mario Musolesi. Era sepolto alla Certosa, oggi alla Certosa c'è un ossario per i caduti partigiani che pochi a Bologna conoscono, ma che meriterebbe di essere visto. C'è la targa con scritto Mario Musolesi e qualcuno ha aggiunto Lupo e ci ha disegnato anche una stella rossa. Venne riesumato il cadavere per fare delle analisi e vedere il foro d'entrata del proiettile, come anche qui di nuovo come era morto Mario Musolesi. La diatriba è andata avanti fino a pochissimo tempo fa. Nel 96 uscì un libro, Marzabotto e dintorni, scritto da Don Dario, il parroco di Sasso Marconi, uno che purtroppo ha sempre usato la sua grande conoscenza di quei luoghi, visto che era nato lì, aveva conoscenze lì, per cercare di dimostrare in tutti i modi che i partigiani erano poco più che briganti organizzati. E anche lì Don Dario ripete la solita storia, che Mario Musolesi è stato fatto fuori dai partigiani, dai suoi compagni, per via del tesoro della brigata, eccetera. In un processo che si è concluso soltanto nel 2007, che in realtà riguardava altri fatti, un'altra marzabotto, quella di Sant'Anna di Stazzema, sono venute fuori delle carte, delle testimonianze di parte tedesca, nelle quali si dice che ad ammazzare Mario Musolesi, detto Lupo, fu un portaordini tedesco che si chiamava Wölfle, che per questo ebbe la più alta onorificenza data dall'esercito nazionalsocialista, proprio perché strappando i gradi dalla divisa del Lupo aveva dimostrato di aver ucciso il mitico comandante Lupo Mario Musolesi in uno scontro a fuoco, tra l'altro a due. A quanto sembra, quanto hanno ricostruito poi due storici che hanno usato gli atti di quel processo per scrivere un libro che si intitola Il Massacro, sempre sull'eccidio di Montesole, pare che i due si fossero incontrati praticamente per caso, perché il Lupo stava cercando di sottrarsi all'accerchiamento del comando della brigata per poi essere in grado di dare ordini ai partigiani, che infatti senza ordini poi si sbandarono in quelle giornate, fuga che molti hanno stigmatizzato, ma come, ha lasciato i suoi compagni, stava scappando, il motivo lo si capisce bene. Incontrò questo portaordini, entrambi si nascosero dietro a un riparo, Lupo finì le munizioni, l'altro gli andò addosso ed è per questo che probabilmente anche ferito Lupo ricevette il colpo di grazia nel punto dove si trovava. E questo, insomma, per fortuna ha messo, dovrebbe aver messo una pietra sopra la questione di come è morto Mario Musolesi, detto Lupo, perché in realtà se voi cercate in rete, ancora oggi, 8 anni dopo la pubblicazione della sentenza, 8 anni dopo quel processo, continuerete a trovare giornali nei quali si spaccia la tesi, peraltro messa nero su bianco per la prima volta dal solito Giorgio Pisanò, di Mario Musolesi fatto fuori dai suoi compagni partigiani.